Blue Time Live. Amici di Blu Radio Veneto, benvenuti all'ascolto. Questa è la serata del giovedì con Blu Time Live con Maurizio Calzavara e Flavio Bilato ai microfoni per voi. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Innanzitutto rivolgiamo un abbraccio ad Agostino che doveva essere qui con noi per condurre la trasmissione. Speriamo di vederlo più tardi e gli mandiamo innanzitutto un salutone, un abbraccio forte. Al quale si aggiunge Maurizio, naturalmente. Decisamente. Decisamente. Io sono il nonnetto, quindi devo assolutamente abbracciarlo. Benissimo. Allora, anche in questa sera, come abbiamo abituato gli ascoltatori ormai da tempo, musica dal vivo, musica a grande stile, musica particolare in questa serata, perché abbiamo un graditissimo ritorno innanzitutto. Viene a trovarci dal Friuli, una terra qui vicina, si chiama Giulia Daici. Benvenuta Giulia. Buonasera a tutti, grazie. Allora, ha fatto buon viaggio innanzitutto? Sì, benissimo, benissimo. Non sei sola a fare questo viaggio perché no. Ti ha accompagnato chi assieme a te poi suonerà in questa trasmissione dal vivo, ovvero salutiamo già in partenza Alessio De Franzoni ed Enrico Maria Milanesi, nonché il produttore esatto. Simone Rizzi. Buonasera a tutti e quattro, allora, ecco qua. Allora si parte con questa carrellata musicale fino alle 22:30 per parlare di musica assieme a Giulia Daici, per presentare soprattutto un album che è cantato rigorosamente in dialetto furlano, si può dire così? Sì, in lingua friulana, mai dire un friulano che il friulano è un dialetto. In marilingue praticamente. In marilingue. Ecco qua. Allora, perdonami se non dico correttamente, ma voglio provarci da buon veneto. Si intitola Talcil Desaquilis. Bravissimo. Esatto. È vero? Quindi tu adesso lo dovrai tradurre per renderlo più vero. Allora, si chiama Talcil Desaquilis e vuol dire nel cielo delle aquile. Ah, nel cielo delle aquile, e quindi nel cielo delle aquile è svolto tutto il CD? È un concept album dedicato al cielo? Cosa succede all'interno di questo contenuto digitale? Ok, digitale e fisico, no? Perché digitale c'è anche qualcosa fisico, sì, da tenere sì. In mano. Che vuol dire. Sì, sì, ecco qua, sentiamo anche la copertina. Allora, Talcil Desaquilis è un disco, come hai detto tu, in lingua friulana, contiene canzoni inedite in lingua friulana, ma canzoni che sono state scritte in questi ultimi 10 anni, praticamente, da me, 7 canzoni sono mie, e da Simone Rizzi, che oltre ad essere produttore artistico è anche autore del film a 3, di canzoni, del film a 3, sì. E abbiamo deciso di mettere insieme queste canzoni, di unire un po' quelle che abbiamo fatto in questi anni in lingua friulana, ed è nato questo progetto. Sì, però tu hai detto in un'intervista che sì, questo progetto continua, cioè un progetto esatto. Friulano, però il progetto italiano non è messo da parte, no, è parallelo. È parallelo, infatti in questi anni ho sempre scritto sia in italiano sia in friulano. E insomma, l'anno scorso, 2 anni fa, anzi, perché il tempo vola ormai, nel 2011 è uscito il mio disco E Puoi Vivere. Esattamente. Lo scorso anno, a fine dicembre, appunto, è uscito Talcil Desaquilis. Spero che il prossimo anno torniamo qua con un nuovo disco, magari in italiano, per fare magari un doppio, italiano, italiano furlano. Sai mai mettere limiti un po' no, assolutamente alla creazione? Sì. E tu sei arrivata seconda al Festival della Musica Friulana, sì. Battuta per una piccola cosa da Luigi Maiero, da un grandissimo Luigi Maiero che abbiamo ospitato, che anche lui è un cantatore friulano. Allora, come direbbe Giulia, è assolutamente un onore essere battuti a Luigi. No, un onore arrivare seconda appunto sapendo che sì. Primo è arrivato lui, insomma. Perché è stato lui che bene o male ha sdoganato, si può dire così, Giulia, la musica friulana. Eh sì, l'ha portata parecchio in giro. Esattamente a livello nazionale, esattamente, insomma. Bene, sentivo anche di amici lombardi che conoscevano molto bene la lingua, anzi le canzoni in lingua furlana, proprio perché c'era Luigi Maieron che portava avanti la sua musica anche da quelle parti, quindi diamo una spinta anche a Giulia Daici. E chi lo sa, affinché, bene. Credo che alla fine poi la musica sì. sia bella in qualunque lingua, certo, no? assolutamente italiano, sì. Furlano, inglese. Allora, noi ne stiamo parlando, però aiutiamo i nostri ascoltatori per entrare bene nell'argomento presentando già il primo pezzo che ascolteremo da disco e poi sì? Torneremo in diretta per commentarlo insieme. Sì, il disco che stiamo per ascoltare è proprio il disco che dà, è la canzone, scusa, che dà il titolo al disco, si chiama Talcil Desaquilis, È una canzone importante perché al di là di avermi fatto arrivare seconda al Festival della Canzone Friulana, lo scorso 29 settembre 2012, con Mogoli in giuria, quindi anche questa quindi è stata una nota di merito assoluta. Esatto. È stata la canzone che ha un po' trainato un po' tutto il progetto, perché proprio nel comporre questo brano, ti parlo di inizio maggio del 2012, che insomma io e Simone, appunto quando Simone mi stava ascoltando in questa canzone, mi ha detto: ma sarebbe bello pensare di poterla fare ascoltare, no? In qualche modo di più. E da lì è partito l'idea appunto di mettere in un CD con tutte le canzoni. Allora, visto che hai nominato Simone, sì? Ci ascoltiamo la canzone e poi sentiamo, esatto, anche due paroline va da bene. Lui. D'accordo. Comunque mi viene in mente, è una buona data 29 settembre, se non sbaglio c'è un'altra canzone, sì, che porta. E di improvviso lei. E di improvviso lei. Proprio da Mogol. E di improvviso lei. Benissimo. Allora ci ascoltiamo questa canzone, Talcil des Aquilis, eccola qua. Giulia Daici a Blu Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Papavarsky mi spaventa, o cerco voi di fermarlo, mi plazares, potrei imbracciarlo anche col cuore, ma mi spaventi, così corri vagare, ascoltami, a perdonami e di chi corri vagare. O crodi spesso, che puoi sbagliare, se sfidi il vuoi, tu ti intagli, che mi spaventi. Non è mai facile smentearsi di un passato, che al fa sombrere anche il cubo, che mi spaventi. Sì, corri vagare, a scaldarmi, a illuminare. Vole, e passa il sole, un foran c'è in cipore, e pensa ai dis dei suoi sims lontans, che ormai non sono più importanti. Come olse, come sa svolare, con ali sviati se va ad ogni lato, e chi ha le dentri la sua aria è clare, non ha più porre di si biale e rare. Sì, ho svolgia, musilla. Svola, senza poche. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Rinnoviamo la nostra buona serata a tutto il pubblico in ascolto, sempre all'interno di Blue Time Live, ospite con noi Giulia Daici per presentarci il suo ultimo lavoro, Talcildes Aquilis si intitola, e abbiamo ascoltato proprio al volo, si può dire così, la canzone che dà il titolo all'album, quindi una specie di volo, di visione dall'alto di quello che è il mondo che circonda. Sì, un mondo che però... All'Aquila, che è la protagonista di questa canzone, che in realtà sono io, una canzone molto tipografica. All'Aquila questo mondo comincia a far paura, no? E l'Aquila è una cosa banale, perché l'Aquila è uno dei più forti, il più forte rapace, no? Un animale forte. Non dovrebbe farsi domande banali come non sono più capace di volare, magari adesso mi butto e mi faccio male. Eppure capita nella vita che per un passato, che magari ti può far vivere eventi insomma anche poco belli, si comincia a perdere un po' la stima in se stessi, si comincia a perdere la forza di buttarsi. Però è un'aquila che durante la canzone invece impara ad ascoltarsi, a perdonarsi e si riconosce in quanto tale, impara a rivolersi bene e riesce a buttarsi e a volare. Benissimo. Grande poesia all'interno di questo volo. E musicalmente come mai Simone l'ha orchestrata come una pop song? Visto che il testo dell'aquila, quindi, doveva essere una canzone più energica. O no? Lo chiediamo a lui, magari. Come mai, Simone, no? l'hai virata verso una pop song? Bella, indubbiamente. Ma, in realtà tutto è nato, eravamo a pranzo, in pizzeria proprio. Pizzeria si chiamava All'Aquila, no? No, però eravamo a Grado, visto che ci hai detto prima, no? Che conosci sì. Grado, eravamo Aquilei, a Grado. E allora Vignano, sì. Si parlava della canzone, cioè mi fa... Però io sentirei bene queste note, tin tin tin... E io ho sentito sto riff e mi si è aperto proprio l'arrangiamento, perché poi gli arrangiamenti nascono così, no? Certo. Uno trova un riff che caratterizza, e quindi pim pim pim, pim pim pim, e là proprio è partito il film nella mia testa e la canzone era già pronta. Poi pensando che la doveva scrivere a questo festival, io già mi immaginavo il teatro con l'orchestra e sti violini che facevano... quindi è stato un arrangiamento un po' così, no? E così poi è venuto fuori. Poi leggermente bagnato di elettronica alla fine. Sì, leggermente. Perché a me piace sempre un po' qualche sintetizzatore, per non lasciare proprio la canzone da festival, proprio orchestrale, basta, per dargli un qualcosa di un po' più moderno, un po' insomma, così. Sì, tra le altre cose, mentre facevamo delle prove, Simone Rizzi, che è anche il produttore appunto di questo lavoro, stava anche strimpellando con uno strumento elettronico, tanto per dirla. Per poi, cui, sì, dimmi Simone. In realtà quel sintetizzatore lì che si sente, no? Sì. Per me dava l'idea del volo dell'aquila un po', no? Questo un po' come non so, lo sbatter d'ali prima di planare, no? Quindi voleva rendere questa cosa un po' così. Qui tre colpi forzati per sistemarsi bene a terra. Esatto. Sì. Benissimo, allora Talcildes Aquilis, i nostri ascoltatori sono i benvenuti sia attraverso le nostre frequenze tradizionali, quindi ascoltabili via radio FM, sia attraverso il nostro sito internet, quindi bluradioveneto.it. All'interno della pagina dedicata a Giulia Daici potete ascoltare la diretta, basta cliccare su diretta audio, e salutiamo anche i nostri amici che hanno scelto invece Facebook per... salutarci, naturalmente possono inviare anche qualche messaggio a Giulia Daici nel corso della trasmissione. Salutiamo allora, anche Paolo, che è venuto direttamente dall'Emilia, da Reggio Emilia, per assistere la band proprio dal vivo, vero Paolo? Benissimo, salutiamo anche Paolo, grande amico della radio. Allora, visto che si ricordava in partenza che c'è tanto di piano, tastiere con chitarra, oltre alla voce di Giulia Daici, perché non ascoltarci un altro pezzo, questa volta dal vivo? Sì, direi di farvi ascoltare la prima traccia del disco, proprio dal vivo, che si chiama L'Idris di Armonie, che vuol dire in italiano Radici di Armonia. Ed è una canzone che ho scritto un po' come inno alla natura, no? Pensando che spesso dal punto di vista umano purtroppo tutto quello che capita è motivo di lamentazione, di lamento, no? Allora, o perché è troppo freddo, perché c'è la neve, sembra una tragedia, cade un centimetro di neve a gennaio. Poi insomma, dico sempre che sarebbe da preoccuparsi se a gennaio cominciassimo ad andare in spiaggia, no? Con tanto caldo. Invece, cioè, chi non si preoccupa per questa cosa? Però? Purtroppo sì, ma sarebbe da cominciare a preoccuparsi un po', no? Di quello che sta succedendo. Sì. E a livello globale. E appunto invece in questa canzone parlo un po' della musicalità della natura, di quello che in realtà succede nella natura, è tutto ha un senso, no? Quindi se cade la pioggia, forse cade perché ha bisogno di... perché un fiore sta chiedendo la pioggia, no? C'è bisogno di cullare un fiore. Oppure se soffia il vento forte, forse non lo fa perché ci considera solo della polvere, ma perché vuole farci vivere in un cielo ancora più sereno, perché il vento è vero che porta vicino le nuvole, ma anche le porta via, le spazza. Quindi se qualcuno ha visto anche un fiore che fa la danza della pioggia, ci informi. Può essere, magari. Vabbè, allora Giulia Daici, in diretta dai microfoni di Blu Radio Veneto, assieme ad Alessio De Franzoni ed Enrico Maria Milanesi, per questa Lidris de Armonie. Esatto. Bene. Che ci dia al chiante in tena tu che a tardi no un cacò ma c'è un cevosa si muov da me col cu se il sec di un efe al crice non è parviene che noi pies non si inquagini ma sare la schede ghiti i fas passando le catino te sempre la vita e chiante sempre Lidris di armonia che me dentro l'anime ah, yeah. Sempre la vita e sono sempre ricams di garofui in te snotis di coral ah, ah. Scolte c'è con sospir plate dalle nestre premure di far un calzar ghioldi di ogni butto senza specla se il neri di un nulla al tone non è par viega un burlaccia la bula con no se gote la ploe a son parlisi amor che con l'impanicione rose sempre la vita e chiante sempre le tristi armonie che me in dentro l'anime ah, yeah. Sempre la vita è sulle sempre ricams di garofui in tes notis di coral sempre sempre sempre sempre e l'aria soffre con fuoce non è parvie che parlo io sin da me pulvis ma dal di danci a un fanno svolar tu un blu che si fa sempre più clar sempre la vita è chiante sempre li tris di armonie che me in dentro l'anime ah, yeah. Sempre la vita è su ne sempre di garofui in des notis di coral sempre la vita e chiante sempre le tristi armonie che me in dentro l'anime ah, yeah. Sempre la vita e sulle sempre ricams di garofui in des notis di coral. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah sempre li tris di armonia. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Giulia Daici, protagonista di questa serata, direttamente dal Friuli, per presentarci il suo ultimo lavoro in lingua friulana, Talcildes Aquilis si intitola, e abbiamo ascoltato questo primo pezzo in live acustico intitolato L'Idris di Armonie. E volevo subito chiederti, sì, Giulia Daici, come si direbbe in friulano live acustico? Live acoustic. Ah, proprio, è uguale, identico allora. Sì, perché live resta, sì, live. È inglese, giusto. È inglese, quindi è internazionale, insomma. Vabbè, allora questo L'Idris di Armonie, che è un invito al silenzio per ascoltare quello che si deve dire alla natura. Esattamente, è un invito a imparare ad ascoltare di più, no? Che anche a volte in un silenzio è racchiuso un mondo, no? Eh sì, assolutamente sì. Ti volevo solo raccontare un aneddoto, come è nata questa canzone. In realtà è nata quasi di getto, osservando nel giardino di casa mia una foglia secca, quindi morta, però sopra di questa foglia c'era una coccinella rossa che le stava passando sopra. Quanti puntini? Non mi ricordo. Però, perché insomma, in base ai puntini si determina la fortuna. Allora no, sono molto fortunata, adesso non stiamo a scherzare. No, e quindi questa immagine, no, di una foglia che era secca e quindi scricchiolava, ma non perché due piedi la stavano calpestando, ma perché c'era della vita che le passava sopra, è andato poi l'input per scrivere questa canzone, che in realtà in una strofa dice proprio che se una foglia secca scricchiola, non lo fa perché due piedi la calpestano e quindi si dimenticano di lei, ma perché sopra la sua schiena le sta facendo il solletico passandoci sopra una coccinella. Fantastico, è una citazione filosofica molto importante questa. Merita di essere scritta appunto nei grandi libri. Speriamo, dai. Sì. Dal punto di vista musicale ci sono due cose, due fattori. Intanto c'è la chitarra di Enrico Maria Milanesi qui davanti. Lei suonata in modo percussivo, secondo me, nel disco. Qui no, chiaramente la versione live è un po' diversa, ma nel modo percussivo. E poi il piano di Alessio. Come mai la correlazione tra il piano e la chitarra percussiva? Non c'è la batteria, la chitarra percussiva. L'idea come è nata? Il pezzo l'ha scritto la Giulia, chiaramente, ma l'idea dell'arrangiamento come è nata? Sono le domande traditrici queste. Il produttore Simone gli ha dato il... Ecco, parlo qua. Qui. Parla Enrico Maria. Ecco. Enrico, no, Maria. Allora, sì, in realtà con Alessio ci siamo conosciuti in occasione delle registrazioni. In realtà è stato subito... non abbiamo messo giù un progetto a tavolino... Siccome ognuno di noi fa un sacco di cose, magari anche improvvisate, spesso ci capita che appunto uno tira fuori un'idea, magari inizialmente apparentemente stupida, però poi l'altro costruisce sopra qualcos'altro che la rende in realtà coerente con il resto. Coerente della canzone. Coerente con il vocalizzo di Giulia, praticamente. Sì, o anche col testo. Col testo, chiaramente. Ecco, in realtà è nato tutto così. Sì. Ma io ho cercato di capire... sentendolo, di capire come mai l'arrangiamento è stato incastrato in questa maniera. Volevo sentire direttamente da voi, che l'avete fatto, che l'avete costruito, quali sono stati i segreti per poter arrivare a questo pezzo segreto, questo modo di in fare. In realtà ognuno mette dentro, diciamo, il suo percorso musicale, quindi può essere la sua sensibilità oppure il percorso di studi che ha fatto. Certo. Io diciamo, ho fatto un percorso di studi di chitarra acustica finger picking, che è appunto questa tecnica con cui si cerca di suonare con una sola chitarra varie linee melodiche e anche appunto, come dicevi tu, la percussione, esattamente, la batteria. Mentre Alessio ha dato la sua cadenza al piano, chiaramente. Esatto. Non vuole parlare Alessio, no, non vuole parlare, ha detto di no. No, più che altro è troppo lontano, esatto, dai microfoni, ecco qua che Giulia gli porge l'altro microfono. Come si fa a porgere l'altra guancia? Benissimo, allora, mentre cerchiamo di risolvere quelli che sono i problemi delle cucinelle, ovvero il problema dei punti neri, ecco, ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo dal disco di Giulia Daichi, Tal Childes Aquilis si intitola. Questa volta cosa ascoltiamo, Giulia? Allora, questa volta ascoltiamo una canzone molto interessante per vari motivi. Allora, intanto si chiama Nol Val Mica Pur, vuol dire non vale mica poco. È una canzone scritta da Simone Rizzi, quindi magari sul tema della canzone magari ci dice lui qualcosa in più. Però mi piaceva sottolineare che questa canzone ha goduto della collaborazione di un duo acustico molto bravo e friulano, che sono i Deja, composto da Serena Finatti e Andrea Varnier, che salutiamo perché so che ci stanno ascoltando. Sì. Sono venuti qua da voi lo scorso agosto. Esattamente. E l'hanno arrangiata loro e l'hanno eseguita poi assieme a me nel disco. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo e poi sentiamo anche le due parole che ci devi dire, Simone. Bisogna di duce cale viv, di non fai sorts e di non yes in warps. Magari non sei degna di vivi cence ve, che sguardi che non slain, mi costerà mai io. Non vuoi dormire, forse più e non sai prea, ma ci rivolè il ben da ioms che mi semmai. Non val mica poc, dai om si sudor, non val mica poc, giri libertat, savevi di clar, da che ste realtà, non senti si soi, libars di no se me ha, a chei, che fasi in via di scos, cence ve, i cai sorelli sma. Plombe su innocence, che la log vos perché la torpis placis. Voi siel di là in denant, per strade me sicur, succhiata rai per te, noi voi di bandona. La verità, forse che sta le frea, e la vita è me, e io le chiavi a braccio que. Non val mica poc, da iom si usuda, non val mica poc, giri libertà, sapevi io di clara, che ste realtà, non sentissi soi, libax di nossa mea, ok, che fasi in miei discos, change ve, i cai sorelli smans. Okay, che fasi in via di scos, change ve, i cai sorelli smans. Non val mica po, da iom si usuda, non val mica po, ciri libertà, sapevi di clara. Non val mica poc, dai omsi il sudor, non val mica poc, ci vi libertà, savevio di clar, da che ste realtà, non val mica poc, che a tale la libertà. Live. Non è Radio Friuli, è Blu Radio Veneto. Questa, carissimi ascoltatori, siete all'interno di Blu Time Live. Abbiamo ascoltato un brano cantato in lingua furlana, si intitola Nol Val Mica Poc. Ospite in studio Giulia Daici, proprio per dirci qualcosa di più del suo nuovo lavoro, Talcil Desaquilis. Ancora Giulia. Sì, allora abbiamo ascoltato una canzone importante, secondo me forse una delle canzoni a livello di tematiche più importante del disco, no? E penso che la persona più adatta per parlarci di questo sia proprio l'autore, che è Simone Rizzi. Quindi Simone, parlaci un po' di questo, del testo di questa canzone. Questa canzone nasce intanto in realtà con una collaborazione con un'altra artista che poi è anche ha cofirmato una canzone con Giulia, che è il Vavalusso. Sì. Perché io ai tempi, quando ho scritto questa canzone, andavo a lezione da Ilva. Da Ida. E quindi avevo buttato giù un testo che poi assieme abbiamo risistemato, messo a posto, però ci tengo perché insomma qua c'è un lavoro fatto assieme molto importante. E mi piacerebbe brevemente parafrasare in italiano questa canzone, perché secondo me ne vale la pena. La canzone dice: abbiamo bisogno di tutto quello che è vivo, di non fare i sordi e di non essere ciechi. Magari non sono degno di vivere senza avere quelle corde che ci legano. Mi costerà, ma non voglio dormire. Forse non so più pregare, ma cerco di volere il bene degli uomini che mi assomigliano. Non vale mica poco il sudore degli uomini, non vale mica poco cercare la libertà, saper vedere chiaro in questa realtà e non sentirsi i soli, liberi di non assomigliare a quelli che fanno bei discorsi senza avere i calli sopra le mani. Il senso di questa canzone è proprio questo. In un paese, in un mondo in cui c'è tanto parlare, poco fare, io mi domando, non so bene cosa voglio, forse non so pregare, però in realtà quello che voglio è il bene degli altri uomini che mi assomigliano. E nella seconda parte della canzone questo diventa, beh, forse questo è pregare. E questa è la mia vita, io lo prendo a rotta di collo, cioè cercherò di volere appunto il bene degli altri uomini che mi assomigliano. Sì, io ho trovato una canzone bellissima e effettivamente io ed Agostino abbiamo deciso di lanciarla nel discorso del programma che facciamo tutte le sere, non solo acustico, come brano portante, secondo noi, secondo me, dell'album, che a me piaceva particolarmente. A me piaceva particolarmente perché aveva questa influenza folk, questo duetto con Serena, la voce di Giulia e la voce di Serena si accomunano perfettamente, si incastrano perfettamente. È folk, è puro folk, secondo me. Ci fa piacere. Friulano finché si vuole, sì. Però è folk anche friulano, cantato così. E noi l'abbiamo sentita in questa maniera e mi sono fermato anche sugli altri, chiaramente. Ma la traccia numero 3 mi è sembrata molto significativa e abbiamo deciso di lanciarla in questa maniera. Ci fa molto piacere. Questa canzone in realtà parla anche di una grande amicizia che è nata tra noi, Andrea e Serena, perché in realtà non so, io ho forse un difetto, mi trovo bene a arrangiare i pezzi degli altri, però quando devo lavorare sui miei non riesco. E allora è stata un po', siccome è nata una grande amicizia tra noi quattro, ho detto: ragazzi, secondo me voi avete la sensibilità per arrangiarmi il pezzo come io lo sento, ma non riesco a fare. Quindi Andrea ti ha dato una collaborazione particolare sua. Andrea e Serena sì, l'hanno cambiata, perché prima la canzone era in quattro quarti normali, invece poi l'hanno aggiunto questo tempo in sei ottavi, quindi insomma, e hanno proprio creato un vestito che ammetto che da solo non sarei riuscito a fare. Hanno valorizzato esattamente quello che secondo me, che volevi dire. Io quando l'ho sentita come l'hanno arrangiata, allora ho detto: questa è la perfetto. Canzone. E quindi l'effetto del Nol Val Mica Poc. Esatto. Non vale mica poco. Benissimo, allora 21:35 minuti primi, sempre all'interno di Blue Time Live, ancora Giulia Daici accompagnata dai suoi fidi musicisti, sì? per un'altra canzone. Questa volta è il turno di Scusimi. Sì, allora sempre con Enrico, no? Sì. E alla chitarra, Alessio al piano, canteremo una canzone che ha un titolo, se vogliamo, semplice, no? Scusami vuol dire, però è una parola che è così difficile da dire ogni tanto, no? È una canzone d'amore, quindi si chiede un po' scusa all'amato, stesse volte non si comporta come si vorrebbe comportarsi, però insomma scusami, del resto insomma sono così tanto innamorata che quindi posso commettere degli sbagli, no? Una canzone scritta insieme a Ilva Valussa ha collaborato con me al testo, certo. Ed è una canzone del 2004, come vi dicevo all'inizio, il progetto, il disco Talcille Saculis racchiude canzoni friulane scritte nel corso di questi ultimi 10 anni, in particolare Scusimi, appunto, del 2004. E niente, ve la facciamo sentire. Quindi una canzone d'amore vista dagli occhi femminili. Esatto, perché poi ci sarà anche una canzone d'amore però vista dagli occhi maschili. Mamma mia. Non vi anticipo nulla, dai. Perfetto, allora ci ascoltiamo questa prima. Questa prima tornata con la musica d'amore. Tu as dei voi che senti alami dentri, c'è rosina che se ti incolpi di no capi, il pensa ai miei pinsi squindus. E non di che l'amor che tut perdone, plantu mi chiare ci sono la luna culistos mans, tu supis du chi me la mens. C'è robe benedette, mi ha regalat la vita, dammi te, e il tuo ben per me. Se mi confronto sbagli, il curso tra fossiari vorrei scambiare. E mi displas perché, scusimi, ma gli omudi fa. E sono soi così, in che idea de. Scusimi, ma noi vai sin tut, di essi così tanto innamorate. Di un legno turchine e la tua voce profonda mi involuce in quei momenti che ti fa mal cencevole. E così picciole mi par di essi ogni volta che ti finte offuschi la voi coi di palesati l'anime. E o vai quanche mi pensi che il curio ti scrivi figli anche se tu sei astut per me. Donimi per svoltis che io ti metti bande e siamo così di piaditi. Scusimi, bagno mudi fa e son soi così in che ideate. Scusimi, ma noi mai sin tut di essi così tanto innamorati. Sono soi così in che ideate. Scusimi, ma noi mai sin tut di essi così tanto innamorate. Scusimi, scusimi, scusimi. Bagno mudi fa, ti prego scusimi. Soy così in gherdeare. Scusimi, ma noi mai sin tut di essi così tanto innamorare. Scusimi, bagno muri fa e son soy così in gherdeare. Scusimi, ma noi mai sin tut di essi così tanto. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. abbiamo ascoltato in diretta nella versione acustica questo Scusimi, a cantarla Giulia Daici, questa cantautrice friulana che è venuta a trovarci già la seconda volta questa. Sì, sono ecco, stata lontano 2011. E quindi è lontano. È sempre, però mi sembra il 27 ottobre, quindi 7, no? Giù 17. Sempre una data che giochiamo, ti porta bene. 17 e 7 sulla ruota di Padova, ecco, in questo caso. Benissimo. Allora, Scusimi, abbiamo detto che questo brano, che è l'amore visto dal punto di vista femminile, poi sì, la promessa vederlo dal punto di vista maschile, però questo Scusimi, secondo me, e l'abbiamo confermato adesso, viene molto bene anche quando sei sul palco. Eh sì, perché è una canzone che richiede energia, ma richiede anche un aiuto del pubblico, no? Certo, perché il pubblico in questo partecipa caso, e mi fa piacere questa in questo cosa. Caso si chiedeva l'aiuto di noi speakers di battere le mani, vabbè, ci siamo riusciti alla maniera nostra, perché non abbiamo molto il senso del ritmo in questo caso, no, scherzando, assolutamente. Abbiamo notato Enrico Maria scatenato, veramente scatenato Enrico Maria. Hai visto che musicisti che ti ho portato? Ma è straordinario. Poi, questo, ma lei un po' di ragtime, hai fatto un po' di ragtime col pianoforte? Leggermente è un po' variato, è giusto, e poi l'avete trasformato questo pezzo, che era un pezzo melodico tra virgolette, è stato trasformato. Poi Enrico Maria, veramente complimenti, hai dato là una e si vede che ami figure picking, però ecco, assolutamente qua. Bene, a proposito di ragtime, abbiamo appena citato con Maurizio, super esperto negli argomenti musicali, ma ragtime equivale anche un po' al jazz, a un modo di suonare il jazz, e Giulia Daici è stata anche protagonista voce jazz. Tu ti sei espressa in questa maniera anche con un trio jazz. Ah sì, scusate, sì. Adesso ho la memoria. Sì, sì, sì. Sì, sì, era il 2011. Sì, sì, no, come no? Ho suonato con il Milk Trio, che saluto se mi stanno ascoltando. Abbiamo suonato a Bologna per una tappa del Carnival Music Club. Ed è stata una cosa molto bella perché abbiamo presentato appunto in versione jazz delle canzoni mie pop italiane, che se non sbaglio era Ogni vita la sua musica e Sei nell'aria, sì, esattamente. E quindi è stato un po' un esperimento, no? Per presentare le canzoni pop in versione un po' alternativa. E come ti sei trovata in chiave jazz? Ti dirò che a me piace sempre, sono sempre a porta tutto, anche sperimentare nuove cose. Sicuramente alle canzoni è stato dato un nuovo vestito, non è detto che questo nuovo vestito non sia migliore di quello precedente. Il precedente, chiaramente. È bello. Ogni vestito dà qualcosa in più alla canzone, magari mette in evidenza qualcosa in più, no? Sì, beh, tu hai fatto tante cose, hai tanti sviluppi musicali. Sì. Ti sei, cioè, concorsi, sviluppi, hai trovato tante vie da portare avanti, mi pare giusto. Sì, non ci si ferma mai. No, anche perché poi se si vuole, insomma, farsi ascoltare, bisogna un po' proporsi un po', no? Certo. Dove c'è la possibilità di farlo. Chiaro. Quindi giovanissima, ma già con ampie prospettive e già con dei traguardi davvero messi lì bene, puntualizzati, affinché tutti gli ascoltatori possano capire che Giulia, nonostante la giovane età, è già una artista rampante, un'autrice di queste canzoni non di secondo piano, diciamo. Sì, poi bisogna anche dire che sono stata anche fortunata di trovare sempre collaborazioni, no? Di persone che, come Simone, che ha saputo darmi una mano, insomma, non Simone, da che poco. Importanza ha avuto Simone nel creare questi pezzi, questa idea del disco in Friula? È stato lui che ti ha portato avanti, ha spinto, oppure è un'idea che parte da te? Beh, l'idea, diciamo, che è partita insieme, no? Io gli ho proposto questa cosa, ho detto: ma Simone, cosa ne dici se è arrivato il momento di mettere come su un CD anche le canzoni friulane? Lui da subito mi ha detto di sì, quindi trovare persone che ti dicono subito di sì, ci credo, facciamo, è già questo in partenza. Esattamente. Ma questo è successo anche quando abbiamo proposto il progetto ad Enrico e ad Alessio. Anche loro. Hanno creduto fin da subito senza neanche ascoltare i pezzi, quindi dimostrandomi fiducia, stima, insomma, ringrazio ancora. E questo è il gruppo. Esatto. Qua si legge gruppo infatti, no? Al 100%. Infatti credo che, poi dico sempre che le canzoni possono piacere o non piacere, però un disco che parte con così tanta energia, no? Così tanto affetto fin da subito, poi se una marcia in più forse ce l'ha. Spero che arrivi questa energia. Beh, qua sicuramente sta arrivando, ai nostri ascoltatori sicuramente. Quindi. Sì, anche nel nostro mixer confermo, l'energia si vede, si sente, okay. si tocca con mano. Ecco, allora no, mi piacerebbe fare una domanda rivolta anche ai musicisti, perché hanno detto di sì senza conoscere appieno il progetto, quindi un po' bendati, diciamo, però con le orecchie assolutamente curiose di fronte a queste nuove iniziative musicali di Giulia Daici. Allora facciamo parlare chi ha il microfono, non so se per volontà o per costrizione, lontano, quindi Alessio De Franzoni, che è anche il tastierista della formazione di questa sera. Allora, tu hai detto di sì, diciamo, a orecchie chiuse o occhi chiusi, però la tua formazione artistica come si è sviluppata prima di conoscere Giulia? Ma diciamo che io ho studiato, ho fatto il percorso di studi del conservatorio, poi provengo dalla classica, diciamo, solo che poi ho fatto sempre le mie cose, sono un compositore, perciò sono musicista, vivo di musica, perciò la mia vita è la musica, perciò... Certo, quindi sempre a livello compositivo, musica comunque classica. No, diciamo. No, adesso da qualche anno mi sono dato a... faccio un mio stile, composizioni musicali, diciamo. Per pianoforte, per orchestra, ma in stile contemporaneo, stile pop moderno, insomma. Quindi un comunque po'... Giulia sì. la conoscevo non di persona, ma perché avevo ascoltato un po' i suoi brani e le sue cose, infatti mi piacevano molto, infatti nutrivo già una stima nei suoi confronti prima di conoscerla di persona. Certo. Infatti poi questa collaborazione è nata così, ma io già sapevo, insomma, mi piaceva molto il suo modo di fare. Invece Enrico... Cosa dice sull'argomento? Allora, beh, io Giulia la conoscevo in realtà perché avevamo partecipato a un concorso e in occasione del quale mi aveva dato l'arduo compito di arrangiare per chitarra, sì, per duo, voce e chitarra, due canzoni. E infatti mi ha fatto piacere che poi, insomma, mi abbia anche chiesto di partecipare alla registrazione del disco, perché... vuol dire, insomma, in qualche modo le è piaciuta l'esperienza e mi ha dato anche modo di, insomma, inserire un po' la chitarra acustica in un disco pop, che di solito è uno strumento e un ti po' ha detto, e ti sottovalutato. Ha detto, sì, ti ha detto con parole sue: ti vuoi bene, scommetto. No? Bene, tanto per inserire quella che è la canzone prossima che andiamo ad ascoltare, sempre sì. in versione acustica, quindi chitarra, voce, tastiere. Sì, hai già anticipato tu il titolo? Sì, bravo. Ti vuoi bene, che vuol dire ti voglio bene, per una sì. canzone, un'altra delle tre canzoni del disco scritte da Simone Rizzi. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo qui in diretta da Blu Radio Veneto all'interno della programmazione serale Blu Time Live. Mi plasca il tuo fa di frutte, togli di te si respire. Sarei e la mia vita come un etale di pelle. L'amore non uscia fuori, non è mai le manie. Non ti sei tu mai fissate, io si fate di si ogni tua sente e davanti chiara cis l'idea dal biel io la chiati tal chialati ascoltati fevelati e capiti resta lì a rimirati e cresci insieme ti vuoi bene. L'anime tu fasi svivi, ti vuoi bene. Di quel di che ti hai chiatare, ti impava. Non ve mai avonde bastati più tonghi. Ti vuoi bene. Io vorrei scalfo, spar simpri, ti vuoi bene. Nasto cu che ste chiantare, sempli. Fate giuste come te, amore mio. Ti vuoi bene. si compte perdue. Là que tu sais. Que fulminant spia stagnot. Al disèvre un poète. Un par viore ti vuoi. El se compete un muse. L'ultimo per pochi. Ti vuoi bene. L'anime tu fasi svivi, ti vuoi bene. Di quel di che ti hai chiattare, ti impavai. Non è mai avonde, bastati qui d'unghie. Ti vuoi bene. Io vorrei scalfo, spark simpli, ti vuoi bene. La sto al cuore che sei chiantare, semplice. Fate giuste come te, amore mio. Ti vuoi bene. Ti vuoi bene. Ti vuoi Giulia Daici in diretta dai nostri studi per farci ascoltare Tal Childers Aquiles, il suo ultimo lavoro. Questa volta era di turno la parte acustica con l'aiuto dei suoi collaboratori musicisti Alessio ed Enrico con questa T-Way Ben. Maurizio, sì, assolutamente c'è stato... Scatenati nel senso positivo del sì, termine. Fortuna tu non... che prima mi aveva detto che era classico. Esattamente. No, nel senso che ha avuto uno sfogo molto... E tu non hai notato una rock. Cosa, sì. non hai visto che no. Eri lontano. Il produttore era ad occhi chiusi, seguiva il pezzo ad occhi chiusi, davvero produttore, assolutamente, proprio estasiato. Lui seguiva pezzo momento per momento e dava aperto gli occhi? Adesso gli aperti, aperti. No, no. E momento per momento sentiva il pezzo. Ovviamente poteva essere svenimento. Come mai Simone questo? No. Allora, proprio concentrazione massima. Lei. Sì, perché mi piace proprio seguire tutti i passaggi. Alessio si è scatenato quel passaggio che ha fatto. In realtà, anche nel disco, no? È bello lavorare con loro due perché... Per esempio, nel disco anche fa una sola abbastanza sì, da folk. Gioca a fare il country leggermente. La cosa bella è che io ho detto: ma mi piacerebbe una chitarra che fa così, e lui fa la chitarra che fa così, ovviamente la sua maniera. Mi piacerebbe una chitarra che fa colà, e lui fa la chitarra che fa colà. Poi mi dice: ma qua dentro cosa ci metto? No? E gli faccio: boh, sfogati. Poi tu è venuto fuori, sta solo così, che era una. Sì, Flavio, è stata una jam session in un pezzo praticamente. Sì, è stata una piccola jam session. E poi dal vivo ho detto: ma visto che c'è questa cosa qua, voglio dire, lasciamo spazio anche ad Alessio. Ad Alessio, ma durante le prove, allora abbiamo detto: boh, fate un po' a testa. Sì. È venuta fuori questa cosa. Bello, tecnicismo bello. E passione. In poi è bello caso, perché ogni volta vanno a sentimento, quindi non è mai. Per quello che l'ascolto con attenzione, perché capito. Non è mai uguale, no? Ma dal vivo cambiate. Sempre l'arrangiamento, le evoluzioni tra Enrico Maria ed Alessio oppure no? Sul palco, qua stasera avete cambiato totalmente. Diciamo sì, ci sono delle parti studiate e questo pezzo in particolare in realtà c'è ovviamente questo solo che nel disco è studiato nota per nota, poi dal vivo insomma vi liberate. Da strumentisti vi liberate. Ci lasciamo andare un po' all'improvvisazione. Ecco. Certo, ecco, per tutti gli ascoltatori e anche per Simone che l'ha ascoltata a occhi chiusi, ricordiamo che questa trasmissione la stiamo registrando proprio per poterla riproporre poi all'interno dei nostri archivi sonori. Basterà ritornare nella pagina dedicata a Giulia Daici all'interno del nostro sito internet e cliccare ascolta la trasmissione, per cui si potrà avere anche la versione acustica dei brani che si trovano anche all'interno di Tal Childers Aquiles. Come si fa per entrare in possesso del disco, Giulia? Allora, basta mettersi in contatto con me. Io ho un sito dallo scorso anno, che si chiama www.giuliadaici.com, quindi è abbastanza semplice, lì ci sono tutte le informazioni per, insomma, ricevere il disco a casa oppure trovarlo in digitale se preferiscono su iTunes, Amazon, insomma i maggiori digital stores. Bene, allora ci tocca ascoltare, ci tocca, no no, assolutamente di buon grado, ascoltare un'altra canzone, sì. Volevo dire ci tocca ascoltare da disco, in realtà abbiamo qui la persona in carne ed ossa, però a dopo per questo. Allora, Serenade di Luz. Sì, è una canzone che mi piace presentare in un certo modo. Allora, Serenade di Luz vuol dire serenata di luce. Allora, prima vi dicevo all'inizio che il disco ha goduto della collaborazione di tanti ospiti. E questa è la canzone che a livello di presenza ha goduto della partecipazione del maggior numero proprio di ospiti, perché è stata cantata da me assieme ai bambini della scuola primaria del mio paese, Artegna, in provincia di Udine, e assieme ai bambini di Butto del Coro in Arteburi. E saluto tutti i bimbi, so che è tardi, ma magari qualcuno mi sta ascoltando. E questi bambini hanno veramente messo tutta la loro gioia e entusiasmo in quello che secondo me forse uno dei pezzi forse più emozionanti, a me non mi dicono così. Perché i bambini, sapete, cantano veramente solo con la gioia di cantare, come dovrebbe essere sempre, no? Loro non interessa se sono intonati, suonati, se stanno cantando bene o male. Cantano perché gli piace cantare, questo si sente. Questa canzone è nata nel 2004 a livello di forma canzone, cioè l'avevo scritta per un festival proprio in Arteburi, che è un festival canoro per bambini di Butto, in provincia di Udine. Però è una canzone che nasce nel lontano 1988 a livello embrionale, perché io ero piccola e già, insomma, avevo imparato a scrivere, scrivevo i miei pensierini, non sapendo che poi da lì a tanti anni sarebbe nata una canzone. E avevo scritto una poesia in italiano che si chiamava Serenata di Luce, che ve la cito perché mi piace citarla. E insomma, Giulia da bambina scriveva così: esiste solo una luce di notte, la luna. Candida, candida, canta la sua serenata di luce e tutti la stanno a sentire. Appunto, qualche anno dopo, nel 2004, più di qualche anno dopo, scrivendo una canzone per bimbi, ho ripreso in mano questa canzone in italiano, l'ho fatta in friulano, e dando vita poi a una serenata di luce che non è altro che un dialogo tra la mamma, la luna, e i bambini che sono le stelle. Mes frutinis, mamelune, uskiandaga, une biele serenade, che dal cur a vos vola. Olune, olune. Y en plena noche simpie l'agno. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Serenade di Luz, Giulia Daici qui con noi a Blu Radio Veneto per parlarci del suo nuovo lavoro Talcildes Aquilis in lingua friulana, e sempre di più mi sento di dire che il friulano assomiglia al portoghese in un certo senso. Ah, sì? Ha una sonorità... Pensavo assomigliasse un po' al francese, mi dicono. Anche un po' al francese, però diciamo che la maniera così di cantare forse è più portoghese, più vicino forse... Anche in questo pezzo forse la saudade c'è un po', si sente, no? Nonostante, vabbè, comunque una lingua molto musicale. Una lingua molto musicale, assolutamente musicale. Poi i brasiliani insegnano, insomma. Vabbè, allora Maurizio. Sì, fra tutte le peregrinazioni, sì, di Giulia, lei ha aperto il concerto di Ginevra Di Marco. Sì. Quindi chi è Ginevra Di Marco? È una voce strepitosa che ha cantato assieme al Vate Ferretti nei CSI. Come mai questa apertura bellissima con, sì, la Ginevra Di Marco? Anche con Nada hai aperto il concerto di Nada. Sì, Nada era il 10 dicembre 2011. Dico questa data perché io non so se i numeri ritornano. Con il 10 dicembre 2011 ho aperto il concerto di Nada a Buia, un paese vicino al mio, dove lei appunto suonava. E invece lo scorso anno, l'11 dicembre 2012, ero a Cormons, sempre in provincia di Gorizia, e in un'iniziativa Cormons Libri si chiama, in cui Nada ha presentato il suo ultimo romanzo, La Grande Casa, e io però ho suonato prima di lei, quindi a distanza di un anno sempre più o meno è stato un giorno, legame. Invece Ginevra Di Marco l'abbiamo incontrata, se non sbaglio, nel 2007-2008, noi un anno di questa, ad Avellino, perché ad un premio che è Musicultural nel 2007, è un premio importantissimo, abbiamo incontrato, io e Simone, abbiamo incontrato Luca Pugliese, che è un grande artista della provincia di Avellino, dell'Irpinia, e lui appunto abbiamo dato un'amicizia, e noi l'abbiamo invitato poi dalle nostre parti a suonare, lui ci ha invitato a un festival che organizza lui ogni anno che si chiama Terre Arte, e appunto durante l'estate in cui siamo nati noi suonava anche Ginevra Di Marco e ci ha fatto aprire a me Simone. Benissimo. Sì. Benissimo. Salutiamo, quindi, Luca, se ci sta ascoltando. Grande onore quella sera. Allora Giulia Daici, innanzitutto ce l'hai il tatuaggio sulla spalla? Bella domanda. Mi riferisco al tatuaggio che, sì, presenti con la tua... con la copertina, sì, dove a spalla nuda c'è un'aquila stile stemma imperiale. In realtà quello è il simbolo del Friuli proprio. E ho voluto presentarmi così con questo tatuaggio, che in realtà è stato un tatuaggio non permanente, però mi è stato veramente disegnato sulla spalla. Era la bravissima Valentina Macri, ha fatto questo lavoro, mentre la foto è di Cesare Bellafronte, che, insomma, se ci stanno ascoltando, avrei piacere, insomma, no? Sì, si ascoltassero. Ritratto in due maniere, da prima non guardando verso l'obiettivo, sì, la seconda, anzi la copertina, guardando verso l'obiettivo, sì, per dire comprami. Beh, no, in realtà... riferito al CD in questo caso. Speriamo che quello sia, insomma, sì, che venga a fare anche questo discorso, però in realtà il significato vero che volevo dare in questa rappresentazione era che ovunque io vada, no? Qualunque possa essere il mio percorso di vita futura, non solo musicale, il Friuli verrà con me, e quindi le mie origini friulane verranno con me come un tatuaggio indelebile sulla pelle. Quindi è proprio uno stampo, quello, sì, che, una qualcosa alla vecchia che ti, maniera. Sì, qualcosa che ti porti sempre dentro, no? Benissimo. Proprio radici. Sì. Se avete sentito delle risatine in sottofondo, è l'amico Gilles, che scatta anche alcune fotografie durante la trasmissione, che si sta divertendo, come d'altronde lo stiamo facendo anche noi. Allora, Giulia, questa volta ancora il turno di strumenti per ascoltare ancora un'altra bella canzone. Questa volta devi aiutarmi tu a pronunciarla, okay, perché non so dove mettere bene l'accento. Allora, si dice Nuits d'hiver, che vuol dire notti d'inverno. È un'altra canzone scritta da Simone Rizzi. È una canzone che già anticipiamo, così magari chi ci ascolta, sì, già sa di cosa stiamo parlando. È una dedica al fuoco, in particolare a quelle notti invernali, in particolare al 6 gennaio, all'Epifania. Quelle notti caratterizzate proprio dal fuoco, no? Noi li chiamiamo pignarui, oppure panevini, friuli. Panevini, sì. Sì, in Friuli. Sì, sì, sì. E quindi, insomma, parliamo di questo. Poi Simone magari ci dirà qualcos'altro in più. Va bene. Ok, allora adesso Nuits d'hiver. il fuc straten soreli intes flamis da joc in machina jux dis vils che dopo in la unghiele parfim seseli dai lense fasi stielis gnos dubiar in tes campagnis chiardin di fucs strispane e vin si plusi tu ridi chiar di vos e matez gnos dubiar du cecale din toga non torni a nasil di clar in compagnie il fuc nudris li grienios d'un viar falivi se patustan che il fuc cun li sos mans di pare al comparis li grios tor dai lens se cale dintor al pagdau tu flame vos supendave e io falis che ti cogdaur gnos d'un viar tu flame vos supendave falis che ti cog daur ros il cil che si sfrusigne un flat di fum fuorichin. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Che bella ballata. Benissimo, Gnos d'un viar, si può pronunciare così? Esatto, sì, perfetto. Guarda, potrei diventare friulano da un momento all'altro. Ma sai, friulano non è sì. facile. Quindi... No, è assolutamente wow. difficile. Quindi si trova tra il Veneto e l'Austria, ma non ha né di uno né dell'altro. No, no? Esatto. È vero? Quindi è una lingua propria. Bene, allora queste Gnos d'un viar, abbiamo già detto di cosa parla. Parla sì? del fuoco, parla dell'atmosfera che lo stesso, sì? che lo stesso crea. E poi Simone, magari vediamo se mi conferma, sì. ha cercato di guardare nel fuoco qualcosa anche in più, no? Ma io farei un esperimento, se vi va. Dimmi. Chiudete, sì. chiudete gli occhi. Sì, un attimo. C'è qualcuno che mi tiene qua il microfono? Sì, dai, chiudo gli occhi allora. Immaginatevi sì. il fuoco di un camino d'inverno che vi scalda. E la canzone dice, notti d'inverno, tutto quello che è attorno sembra d'oro. Tu fiamma, voce... che sale lungo il cammino e io scintilla ti corro dietro. Ecco, questa secondo me è la frase un po' che rende l'idea proprio di cosa volevo dire nella canzone, il fuoco, il calore del cammino, fuori c'è il freddo. Io mi ricordo, rientravo da Trieste all'università, scendevo dal treno, c'era il freddo, vedevo questo fumo dalle case, sentivo questo profumo di fuoco proprio, questo voleva rappresentare la canzone. E perché musicalmente ci hai messo un flauto? E poi questa idea dell'Irlanda che poi è sparita completamente col gioco nel falsetto da parte di Giulia. Molto bello, molto significativo. Però ci hai messo un flauto all'inizio. Il flauto è, a parte all'inizio dico, il fuoco trattiene il sole nelle fiamme sul ciocco di legno. Giochi di sbilf. Lo sbilf è un folletto, no? Friulano, certo. Folletto col flauto, e quindi richiamava un po' questo. Ma poi in realtà è anche il discorso, l'ultima frase dice rosso il cielo che si sporca in un fiato di fumo in piccione. Allora questo flauto voleva appunto rappresentare un po' questo fumo, questo del fumo, proprio la fiamma, il fumo che un po' che scappa, ecco. E Alessio in questo momento è un po' virata sul classico, in un momento questo fraseggio col piano leggermente classico, al mio secondo me. Dopo chiaramente le cose sono cambiate qua dal vivo, parlo dal vivo in questo momento, come l'hai interpretata. Ma forse in questo momento diciamo che le sonorità che stiamo, gli strumenti che stiamo usando in questo momento ci offrono questo modo di rendere la canzone, perciò ho sentito che è positiva. Come ha detto giustamente Giulia, bisogna cambiare. Si adatta un po' anche alla situazione. Esatto, bisogna allargare, bisogna cambiare, e certo. Si sta cambiando anche in questo momento, certo, rispetto, certo, al pezzo del disco. Bene. Poi con Enrico che sì, è bravissimo. Sì, questo è chiaro. Allora diciamo ancora una volta agli ascoltatori che Tal Childes Aquilis è questo nuovo prodotto di Giulia Daici, per chi si sta spaventando perché si sta cantando in friulano, diciamo che ci sono anche diciamo i testi, esatto, tradotti rigorosamente in lingua italiana, così, sì, da far capire. Sì, perché è bello, no? Far capire, sì, quello che, sì, si sta, assolutamente, dicendo. Sì. Magari, sì, tutti gli inglesi traducessero in italiano. Infatti, questo succede quando si scrive magari appunto in lingua friulana, si traduce, però appunto i CD che compriamo in Italia, inglesi, no? Spesso. No, spesso caro, anche perché così si nascondono dei testi veramente. Chi lo sa, forse che sia questo. Non alti come i vostri, diciamo, come ha annunciato in questa serata anche Simone Rizzi, che ha dato proprio riferimento ai testi in friulano, traducendoli, parafrasandoli in italiano. 22:13 minuti primi, sempre con Blue Time Live, sempre Flavio Bilato, Maurizio Calzavara e Giulia Daici, la protagonista di questa serata. Ancora un brano suonato qui dal vivo, questa volta è l'aria, in friulano si, sì, dice Aiar. Praticamente ecco, le console elettriche sono quasi quelle, sono, sì. Sì, no, sono le stesse, solo che c'era un momento di confusione quella volta. Allora. No. Allora, questa è una canzone che ho scritto per la musica, il concetto che mi piace sempre pensare quando canto, cioè quando canto, ma anche quando parlo, e questo succede insomma per tutti, quello che diciamo, quello che cantiamo, si va ad immettere nell'aria da cui tutti respirano, no? Quindi mi piace sempre pensare che un po' in quest'aria, insomma, da chi respira appunto nell'aria in cui io metto le mie canzoni, le mie parole, insomma, chi la respira stia bene, come sono stata bene io scrivendo queste canzoni. Bene, allora mettiamo alla prova questa canzone e vediamo se anche noi stiamo bene, così lo faranno anche i nostri ascoltatori. Giulia Daici a Blu Radio Veneto. Vuoi che io ti senti in me, o cambi vite, o ascolti il mio, entri in me, non mi spaventi nei miei sé, di qualche idea poco stabile, io ridarai anche se ha parentato d'occhi nu, qui resta cu il mio luso, tu saras tu che tu ti impischi dentro in me, o soi come l'aria che prima il soffio e poi si ferma, sei va che il respiro cale in me, anche un po' di te, un po' di te, io ci rarai di far svolare sentis lau di ogni pensier ma gladi cris lus che chiante o sinno cumo e simpi da meno soi come la ia che prima il soffle poi si ferme sei va che il respiro cale in me anche un po' di te o sin come la ia calda la vita tu che mai si ferma se tu lo uccidi tu sas cale si puoi schiattarlo in me e in te al soffle poi si ferme se va che il respiro cale in me all'anche un po' di te o sin come la ia calda la vita dunque mai si ferma se tu lo uccidi tu sas cale si puoi schiattarlo in me e in te si puoi schiattarlo in me e in te si puoi schiattarlo in me e in te si puoi schiattarlo in me e in te. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ayar, sentitola così la canzone che ci siamo ascoltati rigorosamente in versione acustica qui all'interno dei nostri studi. Giulia Daici, la protagonista di questa serata, accompagnata da Alessio De Franzoni alle tastiere ed Enrico Maria Milanesi alla chitarra, produttore artistico nonché scrittore di alcuni dei testi di Giulia Daici, è Simone Rizzi che è qui con noi, che ha parlato anche lui riguardo le canzoni. Allora, un'altra canzone dedicata all'aria, che è un argomento, diciamo, importante in questo caso. Sì, in realtà ho scritto anche un'altra canzone italiana, si chiama Sei nell'aria, no? Forse Maurizio se la ricorda. Sì. E questo tema, questa parola aria, vedo che ricorre spesso nelle mie canzoni. In realtà, sai, l'aria è quella che ci dà la vita alla fine, no? Spesso pensiamo che sia fatto solo di ossigeno, e così fisicamente è, però per vivere, per respirare bene c'è bisogno anche di aria fatta di buone cose, bei pensieri, no? Emozioni positive. E musicalmente chitarra e voce minimale come era nel disco, e tu hai giocato nel falsetto ancora una volta. A me piace molto quando piace particolarmente. È difficile, però è sempre molto difficile, ma molto bello, molto significativo. Come mai questo volere ritornare sempre nel falsetto? In realtà sai che ci sono dei punti della canzone in cui tu potresti andare su con la voce, no? Però non volevo urlare, a me non piace urlare, allora preferisco stare magari più dolce. Ho capito. È venuta perfettamente. Enrico Maria è stato bravo, sì, no? Ti ha accompagnato molto. Dicevo bene. Dicevo prima che suona giusto leggermente un po' meglio di me, no? Leggermente. Sai che questa canzone gliela faccio sentire e lui fa: no, questa facciamo chitarra e voce, perché sta in piedi così. E dico: vabbè, facciamo chitarra e voce. Registra, faccio rec e via. Registrata, chiuso, ho detto basta. Questa va così, cioè proprio. Poi l'abbiamo fatta altre due volte così, giusto per, ma il primo take era quello, perché proprio era così assolutamente, l'atmosfera è stata costruita in questa maniera, poco da fare. Benissimo, ancora abbiamo... Ah, mamma mia, stare bene in compagnia mangia i minuti più velocemente di quello che si possa credere. 22-21 minuti, abbiamo ancora qualche canzone da ascoltare, questa volta ancora una versione acustica. Sì. Tu non ses. No. No, come... no tu ses. No, quasi, com'è? Non è spagnolo. No, no tu ses. Sì. Una canzone molto importante, adesso ti spiego prima di cantare. Scusami della, no, per la pronuncia, dovevo fare un corso di friuliano ma l'ho sempre rimandato. Allora, la canzone in italiano si chiama Non ci sei. È una canzone che ho scritto nel lontano 2002 per mio nonno. È una canzone infatti che parla proprio di mio nonno, perché lo descrive in quelle che erano le sue passioni più grandi, cioè la lettura, ma in particolar modo la montagna. Gli piaceva tanto camminare. E così ho voluto scrivere questa canzone che diventa un omaggio sia a lui, ma sia a tutte le montagne, che sono delle risorse importanti, no, del Friuli Venezia Giulia. Certo. Allora ce l'ascoltiamo. Sì. Giulia Daici, il titolo lo ricordi ancora una volta tu? No, tu sei. Eccolo qua. Ti pensi in tal cocktail con che lì prima che ti fa sviori mos che tu ami, tu ti riguarderas la cime ton ghielci ascoltant la voce di chei che su te mo e va e sempre che ritate in tai toi voi profuma di fert cale con te, ma tu fui, no tu sei sparsi in timi vivi, no tu sei sparsi in timi ridi, no tu sei squanco vai partendo, no tu sei schi come ma vuoi su che tocci me su paimos, tu sei sne stelle ci girarai la luna insieme a te, camminarai con te. Ti vedo su quel balcone col ghiat che si gonfiane, tu pensi sa che monte lontane, che il maon di lane, il zaino su peschene, un ebusa de togne ciute, prendi la. Io che ti saluti pensant cale alle sempre più i piedi non ho con te, ma tu vuoi, no tu sei sparsi in timi vivi, no tu sei sparsi in timi ridi, no tu sei squanco vai partendo, no tu sei schi come ma vuoi su che tocci me su paimos, tu sei sne stelle ci gagai la luna insieme a te, camminarai con te. Cime su paimos, tu sei le stelle gila, ci gagai la luna insieme a te, camminarai con sapessi. No, no, no, no, chiami Nagai con te. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Dal Child Aquilis è l'album che Giulia Daice è venuta a presentarci, questa volta ancora una versione acustica molto delicata e anche, oserei dire, filo jazz in questa maniera. Sì, swingante, secondo me. Molto, molto particolare questa diciamo parte acustica, è leggermente diversa nella parte da disco. Sì, sì, quindi c'è stata questa miscela disco acustico. Sì, però forse il significato che di fondo volevamo dare, no? Che è una canzone molto profonda, anche se vogliamo anche commuovere, no? Perché certo. Era il mio nonno. Però al tempo stesso, siccome è un ricordo, ma un ricordo bello, e volevamo appunto cantarla con un sorriso e dargli anche un sound che potesse essere anche poi piacevole, sereno, che suscitasse serenità. Noi nella redazione abbiamo azzardato quasi sanremese. Noi abbiamo azzardato così perché a noi sembrava. Questo ritornello, questo riff era molto accattivante, per quello piacevole, questo intendo. E allora poteva andare benissimo a Sanremo, perché no? Cosa ne pensa Giulia Daici di Sanremo? Visto che ci siamo vicini, esattamente. Ti prenderei le ferie per guardartelo per intero? Beh, io ascolto sempre perché penso che chi voglia fare insomma, musica, no? E voglia comunque anche emergere un giorno, no? Deve ascoltare tutto. E, beh, diciamo che Sanremo resta la manifestazione che ti dà la visibilità più grande, no? Quindi certo. È inutile spesso criticarlo tanto, tutti noi farebbe piacere essere lì, questa è la verità. E chiaramente, Marta sui tubi, anche loro, nonostante che sia un gruppo alternativo, però... Ma quando... è big poi, quindi mi fa piacere questa cosa. Esattamente, grazie a Fazio e grazie al direttore artistico, quindi... Che li ha portati, li ha voluti. Non sono molto conosciuti Marta sui tubi, ma nell'ambito certo, indie sono conosciuti. Sì. C'è sicuramente qualcuno che si intende sempre di più di musica e molto meno di soldi, no? Questo è vero. Sì. Si spera questa sia è una così. Tematica che forse dovremmo dare spazio, no? Per ore e ore, chi lo sa. Esattamente. Comunque, vabbè, niente. Programma questo concentrato su quella che è la musica di Giulia Daici. Allora, prima del gran finale con un altro brano acustico, ci prendiamo un po' di fiato ascoltando un'altra canzone da CD, questa sì. Volta, lo dici sempre tu perché io mi vergogno, nel senso non darei giustizia alla vostra lingua. Allora, si dice, sì. Si chiama Les Nestres Sensations, che vuol dire le nostre sensazioni, è una canzone che un po' ci porta a godere delle piccole cose, no? Spesso... Magari passiamo tanto tempo nell'attesa di qualcosa di eclatante, di grandissimo, che ci possa dare la cosiddetta svolta nella vita. Dove mettersi la cravatta? Sì, no, magari si aspetta appunto tanto tempo, sperando che succeda questo di grosso, no? Così cambio vita. E poi in questa stasi, in questa attesa, ci dimentichiamo invece che quello che ci dà energia sono le piccole cose quotidiane, come può essere un arcobaleno, come può essere anche la neve, perché insomma vedere cadere la neve è una cosa bellissima, no? L'importante è che sia sabato o domenica, che nessuno sì. Va al lavoro. Va bene, scusa, ho rovinato il quadretto no, romantico. No, no. Sì. Allora, Giulia Daici con Les Nestres Sensations, con Talcid Aquilis, il titolo del suo ultimo lavoro. Sogno strani vivo che al cresce mi metto di nuovo in pins al faslo gioco di dec in teme fantasie la grissa ma mi cambie musiche tu ne cose un segreto che si plate l'occhio il suo a te tu ne stelle il cimia di un ebrame chiali le con me non le nuie di blu special che ridi e vei fare domani. dice a de di me un lassi che sta galta pari vaiesi ac di pluve o voli spesso lo sas ma io non moli mai vai voi di esi una piele mi uple tu un istante l'immensità te sgurle le fermi io a te tu ne intese di do voi un inquinti vivi lu con me vivi lu con me non le nuie di blu special che ridi e fai fuori dove ti ama stupi si può che veni un la play e non ti misi li slagrimis e non le nuie di blu special che vente box in laia nuie di blu e sti spiccioli mio strani vivo tal che se mi metti in pis Blu Radio Veneto dai colore alle tue frequenze Blu Time Blu Time Blu Time Benissimo, allora, Les Nestri Sensations, si intitola così, bene, fantastico, allora poi mi darete il voto al finale della trasmissione. Molto alto, molto allora, alto. Allora ci dicono dalla regia, mi guardo indietro per vedere chi c'è in regia, che abbiamo tempo ancora per due canzoni. Sì, quindi, sì, ecco, invece di una aggiungiamone un'altra. Okay. Benissimo, e quindi cosa c'è? Resta solo da scegliere, ce ne sono tantissime. Sì. In realtà ci resterebbe una canzone. Ah, una canzone, cioè, sì. In realtà nella scaletta ufficiale. Ufficiale, in realtà canzone. Non è che resti una canzone, perché l'abbiamo già fatto ascoltare tutte, dieci sì, sono le canzoni sì. del disco. Ah, poi ci piaceva far riascoltare la canzone che dà il titolo all'album, che abbiamo fatto ascoltare all'inizio di questa intervista, sì, da disco. Sì. Ci faceva piacere presentarla anche in versione acustica suonata, no? Ah, bene, bene. E quindi vi facciamo ascoltare questa. Anche questa? Sì. Bene, allora vuoi che l'ascoltiamo subito? Il titolo prima... è sempre Tal Childes Aquilis, no? Nel cielo delle aquile. Sì, sì, sì. E... come funziona? No, come, no, come no, funziona? No. Facciamo prima. No, no, no, facciamo sentire, cioè, facciamo suoniamo, ascoltare, la suoniamo, okay. Facciamo ascoltare. Accendiamo. Accendiamo. Accendiamo. Di papà vasche mi spavente o certa e voi di fermarlo mi plazares potrei imbracciarlo anche col cuore ma mi spaventi ma sì corri vagai ascoltami a perdonami e di chi corri vagai allassami buttami e così ho svolgia ho bussi l'aia e la sua immensità e così libere ho viaggi li solis dal cil de sanguilis io so i puine di svola licenze poche. O codi spes, o puoi sbagliami, so sfidi il weight, tu ti intorni in me, che mi spaventi. Non è mai facile, smente assi di un passato, cal fa sombrena che cumma, che mi spaventi. Ma sì, con chi vagai, a scaldami, a illuminami, e di chi? Rivagai alla semi abusami e così ho smaniggia ho busi lei e la sua immensità e così libere o viaggi li solis dal cilde sacquilis dal cilde sacquilis. Aquile che svole e passa il sole, un forancio in cepore e pensa ai dis e si assumes lontans che ormai non sono più importanza come olse, come sa svolare con aria sviarti se vado di un lato e chi ha le dentri la sua aria è clare non ha più pore di si viele errare. Sì, ho svaniggia ho busi in l'aria e la sua immensità e sì o viaggi li solis, dal cil de sacquilis, dal cil de sacquilis. Io so i puine di svola, cence pore. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Tal Childe Saquilis, ormai abbiamo imparato a dirlo correttamente in friulano, sì. Questo cielo delle aquile. Delle aquile. Benissimo. E, allora, abbiamo scoperto che c'è anche del rap in questo caso, mancava anche dello scratch con, con il disco in sottofondo da buon DJ. È vero. Quindi si potrebbe ecco, fare, si potrebbe pensare. Ecco, fallo un'altra volta, Enrico Maria. Vedi, ecco qua, quindi siamo ottimo, ottimo. Abbiamo tutto. Perfetto, una versione acustica dove si sente la melodia assolutamente come quella da disco, però c'è stata come sempre quella classica variazione acustica che la rende ancora più calda forse, proprio perché sì. Cantata al momento. Sì, questo guai se così non fosse, no? Perché insomma il disco, uno vuole ascoltarsi un disco, sa che insomma abbastanza sì. Perfetto, no? Sì, insomma, sì. Invece dal vivo c'è l'energia proprio, no? Sì, il gesticolare di Giulia, che i nostri ascoltatori non hanno potuto vedere, ma il gesticolare dava proprio quello, dava proprio l'energia dell'interpretazione. A proposito di appunto dei movimenti di mani, di braccia di Giulia, diciamo che è stato tutto documentato, grazie a Gilles okay. Che ha scattato alcune foto e saranno pubblicate a stretto giro all'interno appunto della nostra pagina internet, quindi oltre a cliccare per riascoltare la trasmissione si possono anche andare a vedere alcune foto appunto scattate in questa serata di Giulia Daici, accompagnata da Alessio De Franzoni, Enrico Maria Milanesi e Simone Rizzi. Noi l'abbiamo sempre ricordato come produttore Simone, ma in realtà è bassista, ah sì, fa tante chitarra, cose. Ma dillo di tu cose. Simone, insomma, Alex. Si ricorda. No, non vuole parlare, parla si solo alzi Simone, parla solo da produttore e basta. Suonato tutto quello che mancava. Ecco, a parte il pianoforte e la chitarra. No. No, vabbè. Sì, il basso, io sono bassista, quindi poi ovviamente quelle parti di chitarra elettrica alla fine sono parti abbastanza semplici, non necessitava di un tecnicismo da dover esasperato. Sì, avevo in mente cosa doveva venire fuori, l'ho fatto coi miei tempi come serviva. Ovviamente le parti fondamentali, che sono il pianoforte e la chitarra acustica, l'ho fatto fare a due professionisti. Poi la programmazione MIDI, sono i sintetici, tutti i groove, quello ormai insomma fa parte del tuo bagaglio, sì, assolutamente. Assolutamente, ecco. Quindi. Benissimo, allora 22:42 minuti primi, direi che c'è spazio ancora per una canzone. Però okay, sì. Però prima volevo passare a quelli che possono essere considerati i saluti, anche se non è propriamente vero, nel senso che poi ascolteremo ancora il pezzo di Giulia. Allora, noi Blu Radio Veneto, noi Maurizio, Flavio, Agostino, al quale salutiamo ancora, lo abbracciamo a distanza, e che doveva condurre questa trasmissione in questa serata. E Gil anche? E Gil, sì, scusa, perché adesso si è messo dietro di me, non lo vedevo più, ho detto dove è finito, lo stavo cercando. Maurizio, cosa stavo dicendo? Sì, dobbiamo fare i saluti, dici. Sì, dobbiamo fare i saluti e dobbiamo ringraziare innanzitutto Giulia Daici, appunto Alessio, Enrico e Simone, che sono venuti qui, sono stati i nostri ospiti e hanno suonato queste musiche per farci ascoltare Talcildes Aquilis, l'ultimo lavoro di Giulia Daici. Ricordiamo ancora una volta come fare per entrare in possesso del disco in maniera legale. Abbastanza sul mio sito www.giuliadaici.com. Sì. Poi mi trovate anche su facebook.com/giulia.daici, insomma sono un po' ovunque. E qualche concerto, Giulia? Sì, beh, allora facciamo, parteciperò, allora in qualità però di ospite farò solo un brano questo sabato, sono a Tarcento, è una cosa bellissima. Tarcento è un paese vicino al mio, certo, che è il compleanno del Circolo Acustico. Il Circolo Acustico è un'iniziativa nata da due cantautori friulani che sono Yuri Leonard e Luis Armato, che saluto se mi stanno ascoltando, in cui ogni volta suonano quattro cantautori, ed è una cosa meravigliosa ascoltare sempre cantautori della regione diversi. Siccome il compleanno, il Circolo Acustico compie un anno, questo sabato ci troveremo tutti i cantautori insieme, quindi sarà una cosa anche forse di importata forse storica per i nostri paesi, saremo una ventina di cantautori, quindi sarò come ospite. E poi le prossime date, stiamo organizzando nuove date per portare proprio tutto il concerto, tutto il disco insieme. Chiedo scusa, si comincia al mattino? No, perché voglio dire... No, tutta la sera. Tutta la sera, sì. Ad oltranza. Ricordo però, a proposito di date, sì, con molto affetto, le date di presentazione che ho tenuto a dicembre. Il 14 dicembre ad Artegna, che è stata l'anteprima del disco, aveva un teatro, mi commuovo a dirlo, con più di 300 persone. Veramente, quindi ringrazio ancora tutti quelli che mi hanno dato stima e affetto, sono venuti ad ascoltarmi. E poi abbiamo replicato il 28 dicembre invece a Butte, anche lì c'era tanta gente, quindi sempre una cosa molto bella. Benissimo, allora un breve cappello alla prossima canzone che andremo ad ascoltare. Sì, io direi di far ascoltare proprio qualcosa da disco, cioè secondo me è bello anche sentire le versioni. Noi abbiamo fatto l'Idris di Armonie, che è proprio la prima traccia del disco, e abbiamo iniziato con Talcildes Aquilis da disco, ma è stata la prima canzone suonata, e secondo me sarebbe bello proprio finire facendolo anche ascoltare nella versione, no? Da disco. Sì, quindi quale? La prima traccia, proprio traccia numero uno. L'Idris di Armonie. Sì, l'Idris di Armonie, Radici di Armonie, che poi anche un invito a mantenere sempre le nostre radici, no? Benissimo, allora ce l'ascoltiamo. Passiamo direttamente ai saluti. Grazie Giulia di essere stata con noi. È sempre un piacere essere qui, siamo una grande famiglia per la fine, no? Ci si sente sempre a casa. Bene, con voi, perfetto. Grazie. Tu avevi le chiavi, no, per entrare. Sì. Beh, benissimo. Salutiamo anche Agostino, ci tengo a salutare. Sì, certo. Salutiamo tanto. Agostino. Allora salutiamo anche Alessio alle tastiere in questa serata, Enrico Maria Milanesi con le sue chitarre, Simone Rizzi, produttore, nonché factotum all'interno del disco. Benissimo, e quindi direi che possiamo finire qua. Da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande caloroso ciao a tutti, buon rientro nel vostra ben amata terra furlana. Grazie. E quindi diciamo, finisco dicendovi mandi, ecco qua. Mandi a Ducchia. Ciao. Al chiante in tena tu che a tardi no, un je vos intimes dans le coucou. C'est que c'est d'une voix à critcher noyé. Par vieux que d'oeil, plus non s'y croit. Ma soeur est la sienne, guide et force. Passant une catinouta, simple. La vie est chiantée, simple. Les tristes harmonies que mènent d'entre l'anime. Ah, yeah, simple. La vie est une simple. Les camps de garofle. In this note is the coral. Salve, c'è con sospiro. Anclate dalle nestre. Premure di fa un montassà. Gioldi di ogni butto. Cence sbegla. Se il meridion nun altone. Par vie qu'un boucle, la chale un boule, un nom. Se gote la ploie, à son perlis d'amour. Que colle une paniccia, une rose. Simpli, la vita è chiante. Simpli, le triste harmonie. Che mène dentro l'anime. Ah, yeah. Simpli, la vita è sulle. Simpli, le camps di garofo. There's not is the coral. Simply, simply, simply, simply. Se la jaga soffre con fuoce non è. Par vie che par lui o sindrome pulvins. Ma dal tintalcine a vulfano solar. Un blu che si fa sempre più clear. Simpli, la vita è chiara. Simpli, un gris di armonie. Che me ne intendi l'anime. Ah, yeah. Simpli, la vita è sulle. Simpli, mi camps di garofui. In des notis di coral. See you.